cosa hai vengono a far? Gli schiavazzi, i cani un bel canifar, i cani un bel canifar. L'impegno non si ore, al posto e a me contrato, il mercato che con casa viene a me del vetro. Dove? Dove? Oh, silenzio, silenzio, silenzio. Io sono qui per giudicar. Io non l'hai scelto affrontato, vengo a far le sue difese, le legittime pretese vengo qui a palesar. Aiutate, aiutate! Oh, silenzio, silenzio, silenzio. Io sono qui per giudicar. Mi raccomando e mando a quanto venga qui per testino, nelle promissime attimo le potestanti di danaro. Sono tremati, sono tremati, sono tremati, sono tremati! Silenzio, lo vedremo, il contratto leggeremo, tutto in ordine deve andar. Son colusa, son sordita, che colpo, che disperata, sbalordita, che risultato, che dei colpi, che voce, che voce, che voce, che voce, Speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, speranza, spe